Thank you. piace di lui. Paolo, lo c'è il copo in quale lo chiedo a K. Yeah. insieme. Ti ha sentito, aspetta che ti ha salito adesso. mentre sono dovuto immediatamente andare a lavorare, perché non so quando dovevo uscire o su qualcosa, siamo entrati il primo oggi a lavorare. Tu l'hanno trovato giù, qua a casa. Quello già un minuto era lui, ci ha bloccato. sistemato il capo e spostato il palo. Oh, era secco, non si muoveva manco per sogno. Sono arrivato con te. Sono arrivato 10 centimetri dalla tappa di giù, un 5 centimetri più o meno da primo lato, dai. Sì, ho alzato tutto, adesso l'ho alzata. Positivo, eh. Buono, buono. Va bene, così sono contento. Così qualcosa in più, sempre più o meno uguale. Sì, sì, sì. Però vedo che ti ascolto abbastanza bene, tutto già. No, già va bene, già va bene. E almeno così è finito con la notte. Sì, sì, sì, almeno stai col pericolo, col pensiero e ne scende un momento all'altro, ne scende con quel materiale lì e fissato per sempre e rimane sempre fissato lì. KK. Andrà bene meglio, dai. Certamente. Va bene, l'importante sia risolto il problema. Io conosci. Le prendi i soldi. Era io. Il fatto che poi diventa pesante la cosa, capito? Non è brutta sempre un'altra capitudine a rompere l'anima alla gente. Non va bene. Non va assolutamente bene. Assolutamente bene. Ok, comunque. Adesso già è tutto risolto, dai. È positivo, positivo. La parola, ce ne prendiamo. Io mi sto parlando con voi e sistemandomi le chiavi, la roba che ho già fatto. Allora la ritiro, no, la pulita siamo al posto così. Scapparoci, va bene. Allora ritiro le chiavi, ritiro tutto, riordina tutto, così rimane più ordinata. Se non ci vivo così, la roba per terra, va bene. Vediamo un po' dove è arrivato Domenico, se mi ascolta ancora, attenzione a Domenico. Io non sento più. Se mi stai ascoltando Domenico, fai un buon viaggio e è un felice ritorno, dai, ci sentiamo domani, capo. Riprendi lei, Antonio, io non sento più. Positiva, e prendo anche la salutà, ma un buon trabacco, un movimento. È un buon tutto, dai, e ce la ascoltiamo a domani, dai. Kappa, kappa, e così. Giulia, così, va bene. La pizza, pizza, pizza, boh. Grazie, ma. Ecco. Avanti. E buonasera a tutti i componenti della ruota, qua è Lercino, dai, vi saluta cordialmente. Ciao Lercino, buonasera, ben ascoltato. Ok, poco fa mi sa c'è nessuno, adesso già c'è la gente. Stavamo tutti mangiando. È positivo. Ciao Domenico, buonasera anche a te. Domenico non ti sente più, ha già superato la zona rossa. C'è qualche avanti Antonio, per Lercino cambia. È positivo, dai. Ciao Lercino, ben entrato, ben ascoltato. Gamma, gamma. Ciao perché. Vabbè, tutto a posto? Diciamo quello che è a posto, quello che è da mettere a posto Giuse. Cerchiamo di metterlo a posto. Piano piano, vai, piano, si cerca di andare avanti, Giuse. Dove? Ma tu non riesci a farmi fare qualche giornata di trabacco così, giusto per recimolare qualcosa? Domenico, non ti ascolto Domenico. Ascolti, dove? Ascolti. Ma c'è proprio il Danny con Domenico. Domenico è già Olbia. Ma con Falchetto stai parlando? E vabbè, ho confuso persone, dai. Ma che? Ehi, dimmi. Stavo dicendo, ma non riesci tu a farmi fare qualche giornata se ti capita? Mi capita, non ti preoccupare, se prendo lavoro per parte. Cadere, purtroppo siamo già in troppi quelli che siamo. E niente, siamo già a posto. Ma se capita qualche lavoro privato, già te lo faccio fare una giornata. È positivo, e almeno riusciamo così a tirare il bagno un po', cazzo, ma come Claudio lo sa, che sono veramente a terra, e qua anche nel circolo non ci sia tutto quel lavoro, capito? È positivo, positivo. Se capita non ti preoccupare, Giuseppe. Ci mettono una parola, non c'è problema. Se capita non ti preoccupare, già faccio fare qualche giornata. Non ti prometto niente perché giustamente, ripeto, i cantieri siamo già completo e niente, e non c'è posto. Se capita anche la moneta privata, già ti penso, non ci sono problemi. È positivo, dai. Ti ringrazio per adesso, dai. Riprendi Claudio, dai. Ehi, avanti Luca. Sì, stavo aggiornando l'antivirus, facevo l'antivirus, mannaggia. La scaduta, la chiave di licenza. Giuseppe, come più di me allora, dai. Più di te, più di me. Senza lavoro. K. Ciao Luca, eccellito. Lo so, siamo peggio, veramente a terra terra siamo. Non riusciamo a trovare il tabacco da nessuna parte. Lo so. Vedi Claudio, dai. Sappiamo che c'è per nessuno, quello che ce li hanno se lo tengono bene stretto è per di loro, e cosa pretendi qua? E tu lo sai, mi conosci abbastanza bene, che quando si accendo giù al nero mi vengo a lavorare, e dunque cosa facevo? Quest'estate ho fatto 3 mesi, lo sai quanto mi hanno fatto? Neanche 2.800 euro. I prezzi sono loro, avete capito, li fanno loro. Urgava. Lui e lui è. Purtroppo è così. Purtroppo è così. E lo so, è così. Purtroppo. E noi, da quando abbiamo mollato giù la stazione, dopo che è morto mio padre, mi sono trovato in questa situazione fiettosa, purtroppo. Come dice, morto il gatto, e parlano i tubi. Che sono parole, c'è tristezza a questa attività. È negativo perché c'erano troppi casini con le banche e poi la ferrovia, siamo in rete con la ferrovia e qua. Te lo spiegherò di privato, in persona, dato. Non sono qua a spiegarlo qua al baracchino. Non fanno, sai cosa ci parlano le persone, avanti a tu. Positivo. Lo so, è un casino, lo so, il lavoro e più stiamo andando, più casino sta diventando. Specialmente il lavoro è una cosa che non si crede. Dici che va di scuri, tutto roggia, tutto a posto, tutto quello, tutto l'altro, non sa che c'è più crisi che occupazione, diciamo. E sono sempre certini, sono sempre certini. Ogni tanto si intende, certiate 40, 50, 60 persone dal posto. Allora dimmi tu, ma ti fate anche un po' male, perché è una ragazza andare avanti. Io mi domando e dico, dove andiamo a finire, Claudio? Non lo so io dove andiamo a finire. Dove vuoi ci va a finire? Ci va a finire che ci sarà sicuramente qualche rivoluzione, perché è possibile che Pulino Tossano sia in queste condizioni. Non è facile parlare di lavoro in questo momento, una cosa critica per tutti, soprattutto umiliante per noi sani che abbiamo sempre dato lavoro a tutti. Non dimentichiamoci mai che negli anni 80 e 90 i trasferisti erano tutti qua in Sardegna, perché il dottor Sandro era quello che dava più lavoro di tutti, perché la chimica c'era, l'edilizia c'era e soprattutto la SIR e l'Eniken, così chiamate allora, davano lavoro a tantissime persone. Quindi oggi noi andiamo a chiedere lavoro invece agli altri che ce l'hanno e ci dicono di prendere nel culo. Quindi questo è quello che è diventata la regione Sarda. Mentre prima avevamo lavoro agli altri, oggi gli altri hanno il lavoro, non ce l'hanno, ci dicono che non è. Sottomettersi a determinate persone, punto e domanda. Purtroppo devo passare il capo, una di signor sì e signor sì, si può dimenticare un travaglio, se no ti tieni quella della porta, ma arrivederci, buongiorno, buonasera. Purtroppo siamo arrivati a quel passo lì. Noi abbiamo dato un altro lavoro, purtroppo non siamo stati oggi come oggi riconosciuti quello che noi abbiamo offerto quando c'era lavoro. vedi come ci scattano, è una cosa che non si vede, è una cosa che non si vede a Dio. Un attore, sono soprannormato. Grazie a Dio si lavoricchia, non è che si lavora, si lavoricchia, si cerca di andare a mare perché mi avverrà al mare. Purtroppo così lavoro, prima potevi permetterti di uscire da un cantiere e entrare un altro e non c'erano problemi. Oggi non lo puoi fare, se esci da lì rimane fuori. Perché c'è molta crisi, capito, Giuseppe? Ho capito, è come il discorso che io quando sono partito fuori con amici, non so se forse lo ricordi, non so se lo conosci, Ottavio Bisetto, mi ha portato fuori, mi ha portato a Brescia, mi ha portato a Bergamo, mi ha portato a Roma, e stavo facendo come aiutante elettricista, capito, tiramento dei cavi, capito? Dunque mi ha detto di fare così così, e io facevo quello che diceva lui, capito? Dunque, ma non è che per motivi di coro era paga che era bassa, hai capito? Positivo. Ebbene, non è così. Cappa. Riprendi, fratto. E la paga bassa, Giuseppe. La paga è riuscita a tutti. Non bloccherò, non abbia proprio una qualifica particolare, quindi è chiaramente è diverso. Ma chi vuole lavorare? Ti dice nei miei soldi sono questi, se vuoi lavorare così, se no fai come ti chiedo, non l'hai già detto nulla. Purtroppo è così, come andano loro, loro ti propongono, loro fanno, e soprattutto come ti creano, ti distruggono, perché da luce a domani ti posso dire guarda, purtroppo il cantiere è finito, quindi resta di alloggio, e se no qui si è rubare a cadute e lampade di strambotti, perché è così. La crisi è quella e basta, non c'è più niente per nessuno, per accumulare soldi, per fare, per avere tanti anni di servizio, per avere molti primi, tanti anni di servizio, stare sempre nella stessa azienda, avere un livello insomma buono e andare avanti. Diversamente grigia, perché la gente sta assumendo oggi con la 604, con tanta informazione lavoro che poi non esiste più, perché stanno tutti prendendo i contributi prima di assumere, e poi ti riconoscivi 2 mesi, 3 mesi, non ti fico di lavoro, quindi non stanno neanche più assumendo con la contratto di formazione lavoro. Perché il limite d'età non esiste più, quindi è stato tolto. Però c'è questa legge 104 che permette di inserire un po' la gente a contributi minimi, e anche lì c'è una metà truffa. Quindi, però ti dicono, guarda che bisogna fare queste ore, bisogna andare lì, bisogna andare là. E poi andando a vedere il stipendio, a noi sempre, tu immagini già di una persona qualsiasi in disoccupazione speciale, per 8 mesi prende 980 euro al mese, quindi, capito, la gente si fa assicurare, lavora 72 giorni e poi si fa licenziare, si mette in disoccupazione speciale e non fa più niente la mattina a sera. Questa è una legge sbagliatissima. Ma anche arrivata nella frequenza, ascoltare e fare, va bene. Non io poi, mi faccio adesso contatto, sono andato. Ha simulato un contatore in ingresso. Ma ti domanda tu la luce, una pressione. Poi qua c'è la pressione. Allora perché io non ne ho acqua? Adesso lo faccio vedere perché non ne ho acqua. C'era la furgonetta, l'ho messo un tappo cieco, smontato il contattore, che non aveva manco già la cinetta, l'ha detto, figurati tu, infatti io mi sono fatto la nuova, la sera cinesca, l'ho detto prima e dopo. Perché il contattore è completamente chiuso quello di San Rado, con che parte è chiuso? Completamente chiuso, Antonio. Non proprio manco girava.